Ah, buonasera a tutti, siamo qua per il terzo giusto? La terza produzione letteraria di Alberto Eroldi, un altro romanzo, saggi non ha intenzione di scriverne per il momento. Due parole, chi di voi l'ha già letto? Okay. Quindi, quasi tutti devo stare attento a quello che dico perché... Praticamente il problema di questo romanzo rispetto agli altri è che c'è uno. Ogni volta che cito un episodio c'è uno spoiler, c'è a rischio spoiler di uno, e quindi bisogna stare un po' attenti. Allora, facciamo una breve descrizione. Questo romanzo ipotizza una realtà non molto distante da noi, potremmo dire che potrebbe essere tra 5 anni, 10 anni, ma anche adesso, eventualmente, no? Se fosse una realtà alternativa, in cui, oltre alla pandemia che noi conosciamo, se ne sono verificate altre due o tre, se non ricordo male, molto più pesanti, molto più devastanti, e naturalmente l'operazione di distanziamento sociale è stata portata alle estreme conseguenze. Ma la cosa, diciamo, divertente, con cui inizia il romanzo è che adesso si sta, nel momento presente in cui il romanzo si svolge, non c'è alcuna pandemia. Sostanzialmente la società... Pandemia. La società sta abbastanza bene, non c'è nessuna ragione per stare chiusi in casa, ma nessuno esce di casa, perché tutti hanno sostanzialmente introiettato la condizione del io me ne sto a casa, distanziato, le famiglie vivono ancora come nuclei familiari e tutti si parlano tra di loro, c'è un'eco strana, c'è tutto che interviene. C'è un eco strano. No, adesso sento bene. Adesso si sente bene. Adesso si sente bene. Tutte le persone hanno dei rapporti sociali, lavorativi, ludici, sessuali, tutti mutuati attraverso sostanzialmente un visore come quelli che conosciamo, che però naturalmente è una tecnologia molto più avanzata e consente sostanzialmente di vivere in una realtà virtuale completamente immersiva. Quindi come se io fossi a casa mia in questo momento, siete tutti a casa vostra, ma ci sentiamo in un ambiente in cui ci relazioniamo. E non sentono il bisogno di fare altro, perché questa è come dire, la condizione di vita che hanno. Salvo un... Cosa devo fare? Stavo parlando dentro il microfono. Salvo a un certo punto il romanzo inizia con uno di questi soggetti, queste persone che l'autore ci enumera nel corso dell'inizio delle prime pagine, che decide di fare una cosa potentemente sovversiva. Una risottata, perché naturalmente, come sempre, in determinati ambienti, come dire, ci si organizza per mangiare, per bere, no? Cioè, questa è la vera fondamentale organizzazione. E qui faccio la prima domanda. Nel tuo romanzo ci sono tutta una serie di spunti che sono, se mi consenti la parola, quasi passatisti, tipo metaverso, realtà virtuale, che oggi, come dire, non si parla più tanto di questi aspetti, perché si parla molto di più dell'intelligenza artificiale, però poi tu recuperi in una seconda fase. Quindi, quando hai cominciato a scrivere questo romanzo? E soprattutto... Poi dirò perché secondo me ci sono almeno quattro romanzi qua dentro, e quindi dovevi scrivere o una cosa più grossa o quattro romanzi diversi. Come è nata questa idea del portare alle estreme conseguenze l'esperimento del distanziamento sociale? Poi vedremo alcuni altri dettagli importanti. Io ho iniziato a scriverlo nel 2022 e l'ho finito nel 2023, a cavallo, per cui non ci ho messo proprio tantissimo. E sembra incredibile, ma in quegli anni di intelligenza artificiale si parlava ancora molto poco, cioè non se ne parlava a livello di massa. Sicuramente fra gli esperti del settore se ne parlava abbondantemente e da tempo, però sicuramente a me non era arrivato come un elemento importante di discussione. Proprio per questo motivo. Io mi sono riferito più ad alcuni, diciamo, alcuni ritrovati della fantascienza, per che permettono la realtà virtuale immersiva e che non rappresentano certo una novità all'interno del mio romanzo, e ha delle simulazioni che sono andate per la maggiore una decina di anni fa, adesso non mi ricordo più neanche come si chiamassero, forse tu ce l'hai più in mente, che permettevano di simulare la vita anche sociale all'interno. Era più di 10 anni fa, era Second Life. Second Life, bravissimo. Yeah. Ecco, un potenziamento di Second Life che ha permesso di vivere in questa condizione di distanziamento sociale. L'idea mi è venuta proprio durante la pandemia, cioè continuare a sentire parlare di distanziamento sociale mi è sembrata intanto un'idea molto interessante da sviluppare dal punto di vista delle potenzialità nel futuro, anche perché a mio parere il distanziamento sociale è già abbondantemente nel presente. Noi viviamo in un'epoca in cui, anche se non c'è una norma che ci impone il distanziamento sociale, viviamo molto più distanti di quanto non si vivesse 20 o 30 anni fa. E quindi mi sembrava ci fosse materia per costruire una storia. E questa storia poi, dal mio punto di vista, è anche metafora di un'altra norma introiettata. Tu giustamente dicevi non c'è più una norma che impedisce di vivere distanziati, eppure quello che vuole organizzare una risottata con gli amici è preso da tutti, anche dagli amici, come un pazzo, un mezzo squilibrato. Lui farà veramente fatica a convincere i suoi amici a trovarsi in un parco e mangiare insieme il risotto. Questo è metafora, secondo me poteva essere una buona metafora per altre norme introiettate che normalmente non vengono neanche più prese in considerazione. La principale è quella che viene ben illustrata da un adagio che viene fatto risalire a Fredrik Jameson. Io non ho verificato se sia veramente suo, quindi risalirebbe all'inizio degli anni 90, al 1992 per la precisione, e che recita così: è più facile oggi pensare la fine del mondo che la fine del capitalismo. Effettivamente, se voi andate in giro a chiedere, tutti credo vi diranno che effettivamente la fine del mondo nella società in cui viviamo non è più un'eventualità assurda. Ma la fine del capitalismo sì. Ci hanno infilato nella testa per 30-40 anni che non c'è alternativa e che quindi l'orizzonte ultimo in cui possiamo vivere, la società migliore in cui possiamo vivere è questa. Quindi anche questa è una norma introiettata e mi sembrava interessante ragionare su questo aspetto nelle presentazioni e suggerire, diciamo, un ragionamento sulla potenza delle norme introiettate. Ah, io ti faccio una domanda, così racconti anche che loro non hanno letto. Naturalmente nel libro è una tua attitudine, no? Riempi di citazioni non esplicite, perché non ci sono note a piedi pagina, ma per chi conosce ci sono tutta una serie di citazioni che ci dicono lo spunto logico, lo stimolo magari probabilmente anche a leggere altri libri, no? Perché la bontà di molte volte di un film è quando ti spinge a leggere altri libri o a vedere altri film, di un libro di leggere altri libri. Partiamo dal primo libro che c'è qua dentro, perché io ho detto che ci sono quattro libri qua dentro, no? Il primo è il mondo della fantascienza in quanto ricostruzione di una realtà alternativa che poi viene studiata, perché data una premessa, siamo tutti distanziati, ci colleghiamo con dei visori in realtà virtuali, poi a pioggia casca tutto, no? Come si fa a fare i giornalisti in una realtà come questa? Come si fa a fare i riparatori di automobili? Come si fa a fare le cassiere dei supermercati, no? Che per di tendenza pensiamo che non potrebbero essere remotizzate, invece giustamente nella tua realtà nessuno va più al supermercato perché ci sono dei droni che te lo portano dentro. Quindi ti chiederei di citare quei 4-5 suggestioni di libri simili, no? Una è esplicita perché l'hai proprio menzionata, che è il famoso romanzo di Wells, no? Con gli eroi e i proletari che sono addirittura adesso trasformati da un punto di vista antropomorfico, non sono più neanche esseri umani, quello è citato esplicitamente. Quali altri riferimenti libreschi hai per inserire qua dentro, perché poi te ne citerò uno, magari mi frega, magari ce l'ho in testa che non ci siamo messi d'accordo, per cui mettilo, perché secondo me ce n'è uno che forse o non l'hai letto, allora, non l'hai citato, ma c'è. Ce n'è senz'altro uno che non avevo letto e ho letto dopo, e che presenta in realtà una situazione molto simile, ed è Il sole nudo di Asimov. Cazzo, era quello che ho pensato io. Vai, fregato. Bastardo. Che è del letto dopo? Sì. L'hai letto dopo. È del 56 ed è veramente molto interessante. Lui ipotizza che questa sorta di secessione dei ricchi, perché anche su questo ci torneremo dopo, è un aspetto che si ricava dalla lettura della seconda parte del romanzo, che c'è anche un fenomeno di secessione dei ricchi. Ecco, nel romanzo di Asimov si verifica proprio come una fuga dalla Terra, che è diventata ormai invivibile, un pianeta dove ci sono pochi abitanti, sono i ricchi che sono scappati, e che vivono in enormi... Pochi vuol dire 1000 persone su un intero pianeta, eh? Sì, in enormi fattorie, distanziati gli uni dagli altri, e che hanno sviluppato ormai il disgusto dell'altro essere umano, e quindi per loro è un problema proprio relazionarsi di persona. Interagiscono esattamente come nel mio romanzo, attraverso un sistema come quello che ha descritto prima Alberto, e in più hanno i robot. Ecco, nel mio romanzo ci sono i droni che ti fanno le consegne, e lì ci sono proprio i robot che lavorano. Nel mio romanzo io ipotizzo che alcuni lavori non siano remotizzabili, e quindi in assenza dei robot le manutenzioni delle case le facciano degli esseri umani, e cioè diciamo la fascia più bassa del proletariato a questo punto. Invece il lavoro, che so io, lavoro di fabbrica, viene svolto da remoto, sì, effettivamente in questo caso esistono dei robot, ma non autonomi, gestiti dagli operai che lavorano da casa propria. E lavorano tra l'altro senza avere un orario preciso di lavoro, cioè intervengono potenzialmente per tutto il giorno. E anche questo è una metafora della situazione lavorativa attuale, dove fenomeni tipo il telelavoro, lo smart working implicano un continuo sconfinamento del proprio orario di lavoro, fino a farlo coincidere con il proprio orario di vita, per cui ovviamente non lavori per 24 ore, ma sei tutto sommato disponibile a intervenire in caso di necessità, se non per 24 ore quasi. Quindi uno è sicuramente Il sole nudo di Asimov, che tra l'altro è anche interessante perché all'interno di un romanzo di fantascienza inserisce una trama poliziesca. La storia inizia con un detective che viene inviato eccezionalmente su questo pianeta perché si è verificato un omicidio e deve indagare su questo. Il detective è terrestre. La terra è difficile vivere, non vivono in superficie, vivono sottoterra, in società invece che sono l'esatto contrario, super ammassate come le nostre, no? Uno sopra l'altro, una società cinese tecnicamente parlando, no? Quindi persone che vivono in ambienti chiusi, tendenzialmente milioni di persone vivono in ambienti chiusi, e dove c'è il crimine, mentre invece su Solaria, che è il pianeta che ci diceva Alberto, il crimine non esiste, cioè sostanzialmente non è possibile, non arrivano mai a distanze minori di migliaia di chilometri l'uno dall'altro, certo. Quindi come fa uno a essere ucciso? Perché sono attorniati da robot che servono le famose tre leggi della robotica di Asimov, che stabiliscono che nessun robot può creare danno a un essere umano. E invece pare, cioè uno è stato ucciso. L'unico che da un punto di vista cognitivo è in grado di affrontare il problema è un terrestre. Ovviamente non vi diciamo chi è l'assassino. Esatto. E l'altro sì, è citato esplicitamente, è La macchina del tempo di Herbert George Wells, scritto agli inizi del secolo. Ipotizza un viaggio nel tempo molto in avanti, adesso non mi ricordo se siamo nell'anno 10.000 e passa, dove la polarizzazione fra le due classi si è consolidata anche dal punto di vista evolutivo, biologico, per cui il proletariato vive sottoterra perché più o meno come Metropolis, insomma, lavorava sottoterra nelle miniere, nelle fabbriche, e la borghesia vive invece sulla superficie terrestre. Ma la borghesia si è estremamente indebolita dal punto di vista fisico, il proletariato si è rafforzato, per cui ci sono periodicamente delle incursioni da parte dei proletari che escono per ammazzare e divorarsi i borghesi. Quindi non è che più di tanto poi nel mio romanzo ci siano tracce di questo tipo di trama, però sicuramente mi sembrava utile nell'economia del romanzo, e però non mi dilungo più di tanto su questo parallelo, perché se avrete la pazienza e la voglia di leggerlo, poi capirete qual è il motivo. L'altro romanzo che c'è qua dentro è il romanzo, come potremmo definirlo? È il romanzo che si occupa di ipotizzare come il potere può esercitare il proprio potere sulla popolazione. Ci sono migliaia di romanzi materiali, anche questi molto spesso di natura fantascientifica o parafantascientifica, no? Potremmo citarne tanti, però una cosa che è molto interessante in questo romanzo è una dissertazione sulla polizia, perché ahimè uno dei protagonisti, il protagonista che organizza questa risottata, ha una figlia che vuole entrare in polizia, ma è una polizia che in un'epoca come questa, organizzata come questa, appare, come dire, la polizia più democratica del mondo, e quindi la polizia più autoritaria del mondo, perché la polizia più democratica è la polizia più autoritaria di fatto. Sì, allora c'è un personaggio che appare come voce fuori campo, e che però io ritengo sia molto importante nella storia, che è un docente universitario di questo corso di laurea che io definisco, anzi che lascio definire ovviamente al protagonista, corso di laurea in sbirrologia. Ovviamente un'università che viene frequentata da remoto, quindi la ragazza è a casa, sta seguendo i corsi universitari, e per un problema tecnico l'audio arriva anche al padre, che ogni tanto coglie quantomeno degli spezzoni di ragionamenti mentre sta lavorando, e li coglie con una certa sorpresa e curiosità, perché sono ragionamenti di un, io non direi neanche di un poliziotto democratico, di un poliziotto illuminato, che almeno inizialmente non parla mai di repressione e cerca di provocare gli studenti facendoli ragionare sull'essenza del loro compito di polizia, di repressione, del potere. Tutto sembra molto innocuo, ma poi tutto ovviamente si basa sull'impedire la nascita del conflitto. Cioè la polizia tradizionale opera quando il conflitto si è già verificato, tutte le misure securitarie che ci sono nel nostro paese, che illudono i più, che stiamo garantendo le persone devono essere accoltellate per la strada, sono tendenzialmente logiche che prevedono che il conflitto sia già avvenuto. Accoltellato ma non accoltellato, ma poi se prendiamo quello che mi hanno accoltellato, che mi ha accoltellato, gli faremo un paiolo grande come una casa. Invece questi stanno sostenendo che la buona polizia deve impedirlo, cioè deve, certo, arrivare a dire faccio in modo che non c'è mai uno scontro. E infatti il gruppo di amici che sono i protagonisti della narrazione è un gruppo di persone che non sospetta che ci sia, che ci siano conflitti, che vengano commessi reati, o comunque non certo reati gravi. E il poliziotto è completamente diverso dal protagonista di Indagine sul cittadino di sopra di ogni sospetto. Ecco, se pensate al monologo di Gianmaria Volonté in quel film, ecco qua, è la civiltà e repressione. Cosa repressione e civiltà. Repressione e civiltà, ecco, qua è tutto l'opposto. Però è sempre una forma di esercizio del potere e della repressione. E qua cito una frase che me la spieghi, no? Perché la si capisce, però è il caso di spiegarla. Il padre parla con la figlia che studia sbirologia e le dice: ecco, ho capito, per te si sta meglio perché non c'è quasi più bisogno della polizia, mentre io inizio a pensare che si stia peggio perché non c'è nemmeno bisogno della polizia. Esattamente questo è il motivo per cui ho, cioè, allora io in tutta la prima parte di quello che tu definisci il primo romanzo, sì, ecco, ho fatto lo sforzo di pensare come potesse essere una società del genere e di farlo capire al lettore. Quindi ho creato dei piccoli episodi, perché poi in realtà è difficile inventare una trama in un contesto in cui tutti vivono isolati nelle proprie case, e certo, possono fare di tutto, come per esempio possono andare anche in vacanza, fare un viaggio dove non sarebbero mai potuti andare, non so, in un atollo, basta avere i soldi per pagare, ma costerà sicuramente meno che andarci di persona, almeno di quanto sarebbe costato quando sarebbe stato possibile andarci di persona. Quindi in questo sforzo c'è anche allora, i personaggi sono personaggi con una psicologia molto, molto, io ritengo molto molto elementare, e con un io veramente minimo. Però non volevo costruire un mondo completamente statico, e tantomeno un mondo completamente ripugnante. Cioè, a me interessava presentare una situazione in cui anche una situazione del genere, che si potrebbe pensare come distopica, in realtà ha degli elementi che alcuni personaggi ritengono estremamente positivi e presentano come positivi. Sicuramente la figlia che frequenta l'università, non avendo un'esperienza del passato, ritiene quello che sta facendo estremamente bello, interessante, gratificante. Ci sono altri personaggi che nei dialoghi spiegano quali siano i vantaggi di questo mondo rispetto a quello che loro si ricordano. E invece il protagonista ha un'evoluzione. Cioè, il racconto è anche il racconto di una presa di coscienza, per cui la frase che tu hai citato sta peggio perché non c'è bisogno, esatto, della polizia. È proprio rappresenta l'inizio forse di questa sua presa di coscienza. Ci sono stati tanti elementi che gli hanno fatto capire che c'è qualcosa che non va nel loro modo di vivere. Anzitutto un impulso personale al voler uscire di casa, che non ce la fa più a stare sempre lì sul divano davanti con questo visore, ma poi anche altri elementi, tra cui questa voce fuori campo di cui vi dicevo, hanno stimolato in lui una riflessione. E a quel punto, dialogando con la figlia che difende quello che sta studiando all'università, lui esplicita il suo ragionamento. E in questo secondo romanzo, quello del, come dire, come si esercita un potere in un mondo in cui le persone hanno introiettato l'obbedienza assoluta alla consuetudine, perché non ci sono leggi che ti dicono non puoi uscire, come non ci sono leggi che dicono non puoi andare a trovare qualcuno a casa sua, non puoi riunirti per la strada. Le persone obbediscono a norme non scritte, che sono le norme che garantiscono equilibrio, assenza di conflitto, eccetera eccetera. C'è un altro aspetto in questo secondo, appunto, romanzo che è inserito qua dentro, su come si esercita il potere, che è la figura della giornalista che, simile, e questo non l'hai citato, cioè simile a 84 di Orwell, non è che modifica la notizia, perché dopo tutto non ce la ricordiamo più. Questa è una cosa dell'altro romanzo, no? L'altro romanzo, se ricordate, se qualcuno l'ha letto, quello in cui le persone si facevano tracciare i sogni al punto tale che la memoria ne viene alterata poi sostanzialmente. Quindi, come in 1984 bastava modificare una notizia di 3 settimane fa che diceva abbiamo aumentato la produzione industriale fino a 100 tonnellate, l'abbiamo aumentata fino a 50, la gente non se lo ricordava e la notizia. Qui c'è qualcosa di più raffinato, c'è una giornalista che racconta, non sapendo ben definire se il suo mestiere sia abbia una deontologia oppure abbia sia la rinuncia totale a ogni deontologia, come in una società come questa le notizie vengono trattate. E qui, come dire, ti chiederei di spiegare come, so che stiamo poi raccontando alcune cose che poi si incontreranno, certo, ma c'è una maniera abbastanza, se vuoi, attuale, non particolarmente distopica, di adattamento della notizia. Chiamiamolo adattamento della notizia. Sì, vengono aggiustate, viene fatta una sorta di lifting alla notizia, e il compito, siccome poi in un mondo del genere non è più neanche tanto necessario produrre delle notizie, perché non è che succede chissà che cosa, o meglio, delle cose succedono, ma l'interesse è far credere che non succedano, e quindi quelle poche notizie che servono fondamentalmente come intrattenimento devono anche essere aggiustate. E quindi candidamente questa giornalista spiega che, senza porsi minimamente il problema della deontologia professionale, che il suo ruolo è esattamente questo. Io riprenderei a questo punto e darei una spiegazione del sottotitolo. Mm-hmm. Perché Miss 20, cronache da un mondo di nati ieri. Allora, intanto, vabbè, il titolo non è il titolo che avrei dato io, su questo si è imposto l'editore. Questa gentaglia che pretende anche di avere voce in capitolo. Il mio titolo sarebbe stato Il grande risot. Al posto del grande reset. Al posto del grande reset, che era una teoria che è andata per la maggiore più o meno quando ho scritto, forse un po' prima di quando ho iniziato a scrivere il libro, e che prevedeva il fatto che il Covid fosse stato in realtà diffuso per permettere a livello mondiale un grande reset dell'economia e della politica, degli assetti politici. Quindi il titolo voleva essere ironico. Miss 20 invece fa riferimento al nome del software che gestisce la possibilità di vivere da remoto in questa realtà virtuale immersiva. Mi interessava il sottotitolo, Cronache di un mondo di nati ieri, perché effettivamente questi personaggi sembrano veramente nati ieri, sono personaggi che non hanno un passato, hanno avuto un tale trauma e sono dei sopravvissuti, perché ecco quello che tu non hai detto all'inizio, che le 3 pandemie hanno falcidiato gran parte dell'umanità, quindi questi sono i sopravvissuti e si ricordano ben poco del passato, che era vissuto in modo completamente diverso. Qualcuno ha qualche reminiscenza, però nella loro identità non ha nessun peso. Quindi sono dei nati ieri che quindi, anche rispetto al rapporto con le notizie, hanno un rapporto completamente diverso con quello che abbiamo noi o dovremmo avere noi, perché effettivamente poi di nati ieri in giro anche oggi ce ne sono parecchi, quindi non, anche qui mi interessava dal punto di vista della metafora con l'oggi. Arriviamo al terzo romanzo. Il terzo romanzo che secondo me c'è qua dentro è il romanzo che riguarda le relazioni tra gli individui, ma le relazioni tra gli individui quanto rapporti sociali. Cioè, abbiamo detto, c'è un romanzo di fantascienza che ipotizza un mondo e quindi, come dire, deve anche poi riuscire a costruire, data una premessa, a costruire poi tutte le conseguenze. Una di queste conseguenze, secondo romanzo, è come il potere si esercita in un mondo come quello, in un mondo in cui la gente accetta di obbedire anche dove non c'è una norma a cui obbedire, poi sostanzialmente sono una norma di consuetudine, se vogliamo di conformismo che viene dal fatto che gli altri si comportano così e mi comporterò così anch'io, ma in realtà poi c'è l'aspetto di come la società si organizza nei rapporti individuali e nei rapporti sociali, perché c'è da un lato appunto le persone come si relazionano tra di loro, ivi compreso che quando si entra in una realtà virtuale si può alterare il proprio aspetto perché si ha un avatar, no? Quindi una raffigurazione di sé, e ivi il concetto che poi l'economia di questa società apparentemente, come dire, essendo più immateriale quindi più libera, quindi mi consente di andare a fare una vacanza alle Seychelles senza un costo eccessivo perché semplicemente pago un upgrade del software, ma stando a casa mia mi vedo le Seychelles. Però contemporaneamente questa società si è organizzata in spirito prevalentemente capitalistico, perché a un certo punto scrivi la moda e le aziende di abbigliamento rifiorirono, gli stilisti virtuali rinverdirono la professione. Intanto si vendevano e affittavano edifici, negozi e terreni, rinascevano le attività commerciali e con esse la pubblicità. Tutto virtuale. Cioè, sta raccontando che i centri commerciali, come li conosciamo noi, sono ormai diroccate a rovine in mezzo alla campagna, ma hanno costruito centri commerciali virtuali. Le recensioni virtuali vennero realizzate nel giro di qualche anno, con ben poche leggi, altro che le enclosure inglesi con oltre un secolo di enclosure acts. Quindi tu stai dicendo il capitalismo anche nell'immaterialità di un mondo completamente virtuale, dove in teoria la nostra potenza sarebbe estrema perché posso avere un aspetto diverso, posso andare in un qualunque luogo quanto voglio, anzi alcuni fanno dei viaggi nel tempo, vado a Roma e vedo il Colosseo dell'antica Roma, una cosa di questo genere, vuol dire il vecchio mito, no, della tecnologia o degli ambienti digitali nei quali saremo tutti più o meno uguali. Il mito dell'internet anarchica, che poi è stato ampiamente, come dire, sepolto negli anni in cui viviamo noi, qui si riproduce nella stessa maniera. Quindi questa è la terza, è il terzo racconto che c'è dentro. Sicuramente, no? Allora, se l'esportazione di capitali serve anche per conquistare nuovi mercati, qua abbiamo un mercato enorme da conquistare improvvisamente, perché a fronte della distruzione, almeno per quello che ne sanno i protagonisti, di gran parte del pianeta, c'è un immenso mercato virtuale da colonizzare, e quindi all'interno del quale si possono comprare e vendere case come dici tu, anche i vestiti. Cioè uno stilista non fa più i vestiti per gente che vive in casa, perché tendenzialmente in casa uno non è che ha da esibire chissà che cosa, ma crea gli avatar, e li crea con la possibilità di sfoggiare sempre nuovi vestiti, gioielli, eccetera eccetera. Cioè, quindi è uno spostamento del mercato capitalistico in questa realtà virtuale immersiva, talmente immersiva che se uno si fa la vacanza alle Seychelles non è che semplicemente vede le Seychelles, ma percepisce dal punto di vista olfattivo, tattile, il fatto di esserci. Quindi questo che rappresenta il grosso dell'innovazione. L'innovazione anche dal punto di vista mercantile, certo, perché appunto si producono tutta una serie di professioni che producono, come dire, sfondi, no? Ambienti, e poi tutti i dettagli e gli accessori, sto vedendo cercando un termine correlato alla moda, gli accessori di questo mondo, che è potenzialmente infinito, perché mentre, come dire, il terreno è limitato, per cui i centri commerciali non ne posso costruire più di tanti, qua possiamo costruirne. Una delle protagoniste vende case, se non ricordo male, vende case virtuali. Real estate virtuale. Arriviamo al quarto romanzo, perché inevitabilmente un compagno non può che ricordare che se c'è qualcuno che vive in questa condizione, questa forma di uguaglianza parziale, perché in realtà c'è qualcuno che guadagna molto di più facendo lo psicologo, facendo il medico, rispetto al nostro protagonista che, come dire, rivernice automobili o quantomeno guida robot in una fabbrica. Fa l'ingegnere e guida il sovrintende la produzione. Perché uno dei romanzi che citi è piano meccanico di Kurt Vonnegut, che non abbiamo menzionato. Che chi non l'ha letto se lo legga, per cortesia, perché forse è una delle più incredibili metafore della nostra epoca, scritta 50 anni fa probabilmente, no? Forse più di 50 anni fa. No, però ecco, il quarto romanzo è un romanzo terzomondista, con un afflato terzomondista è riduttivo, che però a un certo punto introduce il fatto che, ecco, la società non è così orizzontale come ci si racconti, perché sul pianeta c'è ancora qualcuno che scava e che fatica, che suda e che muore. E vorrei che tu ce ne parlassi, ricordandoti che ogni tanto tu dovresti stare attento quando scrivi, perché hai scritto un romanzo dove scoppiava una guerra in Europa e scoppia una guerra, ok? Scrivi questo romanzo, adesso spiegherete perché, e l'altro giorno è venuto giù un ponte in una miniera di cobalto e 32 poveri cristi ci hanno lasciato la pelle. Il cobalto è una delle principali materiali che viene utilizzato per gli aggeggi che ci abbiamo in tasca, per i sistemi server che servono l'intelligenza artificiale, la realtà virtuale e tutte queste altre belle manfrine. Però ecco, stai attento, ecco, ogni volta che scrivi qualcosa poi si verifica un episodio luttuoso, e quindi io non so se ne stai pensando un altro, ma eventualmente parliamo, ecco. No, diciamo, non so quanto andrò ancora avanti a scrivere, ma sicuramente l'imperitura fama di me da sfiga a questo punto me la sono guadagnata. Grazie a te. Sì, effettivamente questo voleva essere un secondo romanzo, che però si intreccia col primo. Sembra non centrare assolutamente nulla, compare dopo un terzo ecco, della narrazione. E ovviamente io non vi rivelerò per quale motivo, ma ha un legame poi fondamentale con la conclusione del romanzo. Ed è ambientato in un paesino che ho voluto chiamare Alveare, e che è arrampicato su una montagna, che potrebbe essere nel Caucaso, comunque in una zona simile. Dove... Io me lo figuravo in Turchia, sì, comunque, diciamo, la mia ispirazione era in Iran, ma comunque okay. non è importante. Quello che è importante è che gli abitanti, che anche loro ovviamente sono stati falcidiati dalle pandemie, svolgano comunque un lavoro manuale e anzi tutti facciano i minatori. Quindi nessuno nel mondo descritto nei tre precedenti romanzi di cui si parlava sospetta l'esistenza di queste persone, e nessuno evidentemente si chiede da dove arrivi il cobalto e da dove arrivino tutti i minerali, che comunque sono indispensabili anche in un mondo così virtualizzato. E invece, diciamo, però io, al di là dell'esempio che hai fatto tu, ne ho in mente un altro, cioè siccome adesso certo, l'evento che ho cito io è venuto due giorni fa, no. Almeno l'hai scritto tre anni fa. Ovviamente non potevo averlo in mente. Un libro, un romanzo, tu lo leggi e prende una sua vita anche in funzione di quello che c'è intorno. Leggerlo dopo aver visto quello che è successo in questi ultimi anni a Gaza, e leggere questa parte, insomma, alcuni sviluppi che non vi sto a raccontare, a me ha fatto una certa impressione, ecco, quindi che è completamente, cioè, sicuramente io mi ero figurato delle cose quando ho scritto, ecco, insomma, senza aggiungere molto, però pensateci se lo leggete, ecco. Ti faccio qui un'ultima domanda, perché adesso non possiamo raccontare, perché questa popolazione che vive ai margini del pianeta, sostanzialmente, effettuando un lavoro manuale, vivendo insieme, uscendo dalle case, facendo delle assemblee a casa di un altro in una piazza, quindi comunque vivendo come in una condizione precedente a quella che ha portato al distanziamento sociale. Non possiamo raccontare come evolve questa vicenda, perché è una parte centrale del romanzo, e se no riveleremmo una serie di aspetti. Però a parte la polizia e a parte i soggetti che andranno, diciamo, a disturbare questi signori di Alverare, sembra essere completamente assente uno Stato nel senso pieno della parola. Cioè non si parla di governanti, non si parla di organizzazione politica, si parla di attori che agiscono, in alcuni casi non si capisce neanche chiaramente che tipo di ruolo hanno, che tipo di mandato abbiano a un certo punto, se hanno un mandato o non hanno un mandato. Cioè, come qualcuno ti disse nel romanzo precedente, mancano i preti, no? Per citare un elemento che nella nostra società è, ahimè, purtroppo presente ad ogni geografia, ad ogni latitudine. Poi manca lo Stato, c'è la polizia, ci sono delle strutture, diciamolo senza fare troppa rivelazione, potenzialmente paramilitari, ma non si parla di un'autorità governativa, legislativa o cosa di questo genere. No, anche questi sono dei sopravvissuti, e lì ci sono i contractors. Non esiste più uno Stato. Del resto ci sono diversi paesi in Africa dove probabilmente, se non in tutto il paese, in ampie parti non esiste lo Stato, ma esistono eserciti, bande che svolgono quel ruolo. E anche qui ad Alveare non esiste lo Stato, esistono i contractors e la loro economia di rapina. Poi però gli abitanti del paese sono tutto sommato liberi di interagire fra di loro, perché ai contractors non gli frega assolutamente niente di cosa facciano, come stiano. Interessa solo che producano e vendano, ovviamente a bassissimo prezzo, i minerali. E qui mi è venuto in mente un articolo che ho letto di recente su questo pregiato rivista che mensilmente Il Manifesto pubblica, che è la traduzione in italiano di almeno i tre quarti della Monde Diplomatique. È una notizia che è girata, ma ovviamente poco segnalata. Più importante la vendita dello stadio di Milano, più importante le vicissitudini di Sala, o più importanti anche fenomeni bizzarri che evidentemente interessano molto di più i lettori, ma il fatto che il Ministero della Difesa americano ha acquistato, ha siglato 75 contratti con una società di tecnologia, in cui sostanzialmente sono acquisti di software o di funzioni stack differenti. Ma la vera cosa fondamentale è che sostanzialmente hanno appaltato, il Ministero della Difesa americano ha appaltato alcune funzioni che tipicamente hanno gli eserciti, l'intelligence, lo studio dei bersagli, l'utilizzo di algoritmi per puntare meglio le armi, le hanno appaltate a un'azienda privata, che è un'azienda privata che lo fa perché riceve dagli Stati Uniti una svagonata di soldi, e il cui fondatore ha di recente dichiarato che libertà e democrazia sono due concetti che forse non vanno perfettamente di pari passo, per cui per essere liberi forse è il caso di non avere democrazia, sostanzialmente. E mi è venuto in mente perché questo racconto dei contractor che fai è forse una, come dire, qualcosa che viene tradotto, no? Che traduce situazioni di questo tipo. Cioè forse lo Stato, che, come dire, alcuni hanno vagheggiato, adesso lo superiamo perché basta che poi libere entità si mettano a garantire la nutrizione, a garantire l'istruzione, a garantire anche la sicurezza delle persone, perché le persone hanno bisogno anche di uscire per strada senza farsi male, o se si fanno male essere curati. In un'epoca come la nostra, in cui ahimè la nostra vittoria non è proprio all'ordine del giorno, c'è un'altra forma di abolizione dello Stato, ed è lo Stato che sostanzialmente cede alcune delle sue funzioni ad aziende private, e le quali agiscono con la logica dei contractor che dici tu. Ma tu questa cosa l'hai pensata perché ti frullava dalla testa, al di là della notizia, no, perché, no, certo, appunto, anche questa è avvenuta dopo che tu hai steso il romanzo, o perché secondo te è una linea di tendenza che si può verificare nella società oggi, tutti i giorni, ogni volta che noi leggiamo come, no, sicuramente, evolvono le... Sicuramente sì, è una linea che si sta affermando da tempo. Nel mio romanzo ci sono le condizioni, allora non c'è stato nessun complotto, nel senso che ci sono state veramente 3 pandemie e la gente è morta veramente. La gente è morta veramente. Il potere è riuscito ad approfittare di questa situazione per affermare le sue forme di sfruttamento utilizzando delle modalità come quelle che ho descritto prima o come quelle che descriveva adesso Alberto. Cioè è una linea di tendenza che si è potuta sviluppare all'estremo grazie a una situazione imprevista. Però tornando a quello che dicevamo prima, visto appunto che non voglio tenermi la fama di mena sfiga, ho pensato che se mi metterò a scrivere un altro romanzo non sarà una distopia ma sarà un'utopia, avremo vinto, avremo preso il potere e ci sarà il socialismo. E da lì, perché peraltro due cose mi hanno fatto pensare a questo punto. Intanto la lettura di un saggio che si intitola Contro le distopie, scritto da un avido lettore di romanzi distopici che a un certo punto della sua vita però ha iniziato a pensare al fatto che non fossero però una grandissima idea. Io non sono d'accordo con lui, però la sua idea è che i romanzi distopici hanno degli effetti molto negativi. Chi ha scritto il saggio è un compagno. Anzitutto ci abituerebbero al peggio, per cui alla fine guardi il mondo in cui vivi e dici vabbè, però tutto sommato non è andata così male, no? Quindi questa cosa ti impedisce di incazzarti adeguatamente e pensare di dover lottare per cambiare il mondo. E poi fa sì che non esistano più distopie, utopie, lui dice, non c'è più nessun autore che scriva delle utopie. Ora, io leggendolo mi sono chiesto, ma quanti hanno mai scritto dei romanzi utopici? A me non è che ne vengano in mente così tanti. Anche perché, e qui passo al secondo punto di riflessione, parlando a dei ragazzi in un liceo, invitato tra l'altro da una compagna qua presente, una ragazza mi ha fatto la seguente domanda molto interessante. Mi ha detto, vabbè, ma in un mondo, adesso io la riassumo con le mie parole, non mi ricordo esattamente la ragazza com'era. Ha fatto una domanda intelligente, noi invece l'unica cosa che possiamo fare è banalizzare. Banalizziamola. In un mondo liberato, dove abbiamo vinto noi, dove non ci sono più tutte queste contraddizioni, un potere oppressivo, ci potrebbe essere ancora la letteratura, nel senso di delle trame interessanti, perché ci sono le trame distopiche, ci sono le trame poliziesche, ci sono i romanzi di guerra, però a parte l'idea di pensare di scrivere dei romanzi rosa stile Harmony, che io spero comunque non si vivrebbe in un contesto dal punto di vista affettivo e sentimentale di quel tipo, però in ogni caso che cosa potrebbe essere interessante scrivere e soprattutto interessante leggere in un mondo del genere? Boh, ecco, questa è la... Quindi anche tu sei preoccupato dal fatto che possa essere un mondo in cui non c'è più bisogno della polizia. Certo, e quindi la sfida è... Perché forse noi non staremmo... Provare a scrivere in un... Mondo, in un mondo senza conflitto di classe noi non ci troviamo. Non staremmo adatti. Noi staremmo bene, ma non so se... Si potrebbe stare altrettanto bene la letteratura, quindi la sfida è provare a capire se si riesce a scrivere un romanzo in un contesto utopico. Poi, se si avvera quello che uno scrive, va bene. Allora, io ho ancora due domande, però sono domande che chiuderebbero il ragionamento, per cui volevo chiedere se qualcuno ha domande qua. So che è il momento del dibattito, è un momento drammatico, però Ricordo a tutti che se qualcuno vuole fare una domanda è pregato ad alzarsi, venire qui, parlare nel microfono, perché sennò Totò ci sgrida perché non si sente nella registrazione o non si sente in streaming. Giusto, Totò? Dai, non fate come nel film di Moretti che scappano tutti sul dibattito, cioè, volendo fare un'ennesima citazione. Fate anche una domanda a lui, cioè, perché? Cioè, oh, bravo. Stavo scherzando, non tifo la Sampdoria. No, manco per il cazzo. La figura della giornalista, di cui si è parlato pochissimo, e mi incuriosiva se ti sei rifatto a Fracassi su Sotto la Notizia Niente, la figura dei gatekeeper piuttosto che... No, in realtà non ho pensato a nessun giornalista. Dai, dila tutta, non è vero, non avere in testa qualcuno. No. Nel secondo romanzo, dove c'era un giornalista come protagonista di una delle due storie parallele, perché anche lì c'era una struttura concepita in questo modo, ci sono due storie parallele che però confluiscono alla fine. Lì sì, avevo in mente un noto giornalista che è Giannini, e quindi mentre scrivevo mi figuravo questo personaggio che è diventato anche un volto televisivo. In questo caso no, effettivamente no, ma anche perché devo dire che i personaggi non sono molto descritti, perché appunto io volevo dare l'idea di, appunto, come dicevo prima, persone nate ieri, persone con poco spessore, ridotte a una situazione del genere. Magari in passato non sono stati così, ma adesso lo sono, e quindi è la storia di una presa di coscienza, di una riconquista di un'identità che in realtà era andata probabilmente perduta. Dai, coraggio, se no non vi faccio comprare la birra, però dovete fare almeno un'altra domanda. Adesso chiudiamo le spine, se non fate almeno un'altra domanda. Mi devo preparare solo io, cioè preparate voi. Certo. Ti faccio questa domanda che non avrai mai sentito, no, ma di cui non abbiamo mai parlato. Vabbè, io l'ho letto il romanzo. In generale, però, secondo me è più interessante la questione della fantapolitica. Io noto come lettore, prima di tutto, che c'è una difficoltà estrema a scrivere nel presente, cioè, o meglio, rispetto ai miei gusti personali, che sono il romanzo d'azione, il giallo, comunque diciamo dei romanzi che avvengono nella realtà e devono essere realistici soprattutto, perché se no non sono credibili, mi domando da un po' di tempo, sia come lettore anche come, tra virgolette, scrittoruccolo di racconti, quanto sia difficile riuscire a scrivere nell'oggi, per una serie di motivi, a prescindere dal discorso sul socialismo futuro, nella realtà, nel presente, secondo me ci sono degli stili, soprattutto narrativi, che rischiano di andare a ramengo fondamentalmente, perché non possono avere una trama credibile. Mi spiego perché. Ad esempio, io che sono appassionato di gialli, pensare a un killer o a qualcuno che svolge un'azione durante un romanzo nella società odierna, e qui si riprende con anche un po' quel gioco distopico che in realtà c'è già oggi, quindi le telecamere, i cellulari, giusto per essere proprio banali, a mio avviso rende anche allo scrittore che vuole scrivere nella realtà attuale molto difficile scrivere. Volevo sapere cosa ne pensate in merito a questa cosa. Lascia lui, io no. Sicuramente a me sembra che in molti scrittori, molti autori non abbiano preso pienamente coscienza del problema, oppure se ne freghino altamente. Quindi capita di vedere dei film in cui I personaggi agiscono indisturbatamente come se non ci fossero ovunque telecamere, e il livello di controllo che già noi stiamo subendo nel mondo in cui viviamo. Io non mi sono mai posto il problema di scrivere una trama gialla, quindi per me non è un problema così pressante. Però mi sono posto il problema dal punto di vista, che so io, storico, cioè il confronto con cosa avveniva in anni in cui c'era un livello di lotta anche che implicava delle forme, se non di clandestinità, comunque di necessità dallo sfuggire dalla repressione, perché si stanno commettendo dei reati, cosa che poi adesso, visto come stanno modificando il codice penale, ormai per chi vuole protestare è diventato un reato pesantissimo anche fare un blocco stradale. Cioè leggevo oggi che la pena che è stata inflitta a causa di patteggiamento ai padroni di una fabbrica tessile in Toscana, che hanno alterato un macchinario per aumentare la produttività diminuendo notevolmente la sicurezza e quindi condannando a morte un'operaia, un fatto tragico che forse vi ricorderete, hanno avuto una condanna uno a un anno e mezzo, l'altro a 2 anni. Se si fa un blocco stradale non da soli, che poi non so chi si metterebbe a fare il blocco stradale da solo, però comunque si fa il blocco stradale in gruppo, la pena massima prevista è di 2 anni, cioè, tanto per intenderci. Ecco, io l'ho pensata da questo punto di vista. Effettivamente qualsiasi tipo di attività illegale oggi, mentre prima certo tu rischiavi, perché rischiavi che ti fotografassero, ma qua il rischio è quasi una certezza di venire fotografati e poi identificati. È cambiato moltissimo, sempre per motivi di tipo tecnologico, anche è cambiata molto la modalità di condurre le guerre. Insomma, io non sono un esperto, però l'avvento massiccio dei droni ha, da questo punto di vista, sconvolto non poco il contesto. Per cui, tornando alla tua domanda, ci saranno degli autori che riusciranno probabilmente a inventarsi qualcosa non è immediato adeguarsi ai nuovi contesti che richiedono, tra l'altro, delle competenze dal punto di vista tecnologico non indifferenti. E ci saranno altri autori che troveranno degli stratagemmi. Io, per esempio, ambientandoli in un futuro prossimo, posso tranquillamente modificare a mio piacimento lo scenario da questo punto di vista, e questo è un grosso vantaggio nel scrivere in un contesto, diciamo tra virgolette, distopico, come preferisco definirlo io, di fantapolitica. Non tenterò una risposta, perché non sono io che devo rispondere, però volevo leggere un pezzo, no, del romanzo di Alberto, che non è che offra una risposta alla domanda, però, come dire, la logica dice che è sempre più difficile, perché ipotizzare determinate forme di conflitto sta diventando molto più difficile, non per noi, perché, come dire, viviamo e abbiamo concepito il mondo in una forma di conflitto, per cui, per questo dicevo, forse io sarei personalmente spaventato di vivere in una società in cui i conflitti non ci sono, perché comunque non mi sentirei a mio agio, ecco, mettiamola così. Però c'è un passaggio che scrive e che dice, è questo famoso professore di sbirrologia, no, che parla e che dice: se un ragazzo cresce in una società in cui è normale dedicarsi a sovvertire il sistema, attenzione, non sto dando giudizi e neppure mi sto esprimendo sui mezzi, potrà pensare di usare il suo tempo libero per discutere, partecipare a manifestazioni, occupare stabili, cioè per mettere in pratica tutta una serie di comportamenti legali o illegali. Chi lo osserverà o chi dovrà intervenire potrà condannare quei comportamenti, ma non se ne stupirà più di tanto. Viceversa, se uno vive in una società dove non ha mai visto cose simili, il solo fatto di pensarle sarà molto improbabile. Ma se uno dovesse pensarle, non troverebbe un riscontro nella realtà e passerebbe rapidamente a pensare ad altro. Arriva un momento in cui determinate idee, determinate pratiche non trovano più il cibo con cui nutrirsi o l'acqua in cui nuotare. Per cui non so se è una risposta alla tua domanda, Andrea, però concettualmente in società come la nostra, che concettualmente stanno affermando il principio che il conflitto va fermato prima ancora che si pensi che questo conflitto possa esistere, non soltanto perché ti punisco perché fai un blocco stradale, ma ti metto in testa l'idea: perché dovresti fare mai un blocco stradale? O per il fatto che perché dovresti scioperare? No? Cioè, dedica il tuo tempo a dire che non sei d'accordo, perché tutto questo è legittimo, ma perché devi scioperare quando nel tuo scioperare dai fastidio a poveri cristi che come te devono andare al lavoro? Cioè, la nostra è una società nella quale si sta dicendo ogni forma di conflitto è in sé sbagliata, e quindi anche il conflitto di quello che deve, non so, magari uccidere per denaro, è il conflitto brigatistico che viene eliminato. Uccidere in larga scala e per denaro in larga scala va benissimo, ma il, non so, le vicende di che si leggono in Hammett, ma si leggono anche in Rexstout, dove c'è qualcuno che per qualche sana ragione, perché è geloso, perché è innamorato, perché vuole fare i soldi, perché vuole drogarsi, uccide, commette reati, effettivamente oggi ci sono molto meno romanzi che raccontano questa cosa, perché il conflitto dei privati nei confronti della società è, come dire, negato per il fatto stesso che possa esistere. Potrebbe essere questa una risposta? O meglio, la tua sì, risposta? Sì, sì, certo. Qua, e torniamo al discorso dei nati ieri, qua hanno avuto l'occasione storica di rimuovere proprio dalle teste delle persone l'idea che ci possa essere un conflitto. È una società, ripeto, pacificata, di sopravvissuti, ben contenti di essere sopravvissuti al disastro, e che tutto sommato vivono una vita che per molti potrebbe essere accettabile. Mangiano, sono belli, magari anche bene, possono fare viaggi di ogni tipo standosene tranquillamente in casa, consumano esperienze. Certo, non è viaggiare. In forma sicura, perché c'è la scena del ciclista che cammina su un crepaccio, che pedala su un crepaccio e non muore. Cioè, quelli che hanno rapporti sessuali più, come dire, multipli possibili, senza rischi alcuni di malattie, ma neanche di disdoro sociale, perché tanto... Chi Quindi, è quell'altro avatar? Perché mai dovrebbe esserci il conflitto? Infatti, nella testa della ragazza quest'idea proprio non c'è. E quello che a me, un altro aspetto che a me interessava, era invece vedere come questa cosa si costruisce. Cioè, il romanzo ha un'evoluzione per cui il conflitto, che apparentemente è stato rimosso dalle possibilità storiche, dalla testa delle persone, invece ricompare inaspettatamente e per le vie, diciamo, meno prevedibili, ecco, dall'inizio della narrazione. Poi, diciamo, tu hai buttato lì una considerazione sulla Chiesa, Dio, i preti. Mm-hmm. Vabbè, di cui tu, sono un argomento su cui tu spesso ti esprimi in maniera abbastanza caustica, ma che non sono particolarmente presenti nei tuoi romanzi. Ma questo, tutto sommato, nel bene e nel male, è un mondo senza Dio, perché essendo un mondo di nati ieri, anche l'idea di Dio è assolutamente inutile, e francamente poi io, provando a mettermi nei panni di questi che sono dei sopravvissuti, non è che Dio, se esiste, gli ha fatto un grande favore, gli ha sterminato gran parte della popolazione mondiale, quindi francamente non vedo molto la possibilità di costruire anche un messaggio religioso. Però ecco, l'altra riflessione che a me veniva in mente, ci si è messo, senza liberarci poi completamente, ovviamente, però ci sono voluti 2000 anni per, o quasi, per toglierci dalla testa tutte le norme comportamentali che derivavano dall'oppressione del bigottismo religioso. Però noi viviamo in un mondo in cui, per carità, sono ancora molto presenti, ma non c'è paragone rispetto, non dico al Medioevo, ma anche solo agli anni 50. La ribellione che ci fu negli anni 60, nel 68, così, e fu anche una ribellione molto forte contro il bigottismo. Ecco, mi piacerebbe pensare a una ribellione altrettanto forte, non in generale, non luddista contro le macchine, ma contro l'uso, diciamo, come si diceva un tempo, l'uso capitalistico delle macchine e l'uso così pervasivo delle macchine che abbiamo oggi, che detta norme sociali, norme di comportamento che spingono verso l'isolamento sociale, il distanziamento sociale, cioè l'uso che viene fatto per i social, dei social, tanto per fare l'esempio più ovvio ed evidente. Cioè anche qui noi abbiamo un agente esterno impersonale, che pur non essendo Dio è sempre un agente molto potente, che ci detta delle norme, e ci detta delle norme contro la nostra volontà e contro la possibilità di interagire con gli altri, organizzarci con gli altri, vivere insieme agli altri e anche ribellarci insieme agli altri. E quindi a me piacerebbe pensare che si possa sviluppare qualcosa di simile, cioè una presa di coscienza e una forte ribellione anche rispetto alla mefitica influenza che ha quest'uso della tecnologia. Ok, e qui ti faccio l'ultima domanda, adesso poi se qualcuno invece ce ne avesse ancora alzi la mano. Ti faccio la domanda che in sé ha, non una critica, ma una seconda domanda. Allora, innanzitutto la prima domanda è: sei diventato più ottimista? Perché nei primi due romanzi la conclusione è di stallo, se mi consenti, soprattutto nel secondo, no? C'è un eco incredibile. La società nella quale forse quella droga che si sta spacciando aiuta le persone a recuperare la capacità di memoria, no? La memoria che vuol dire anche sono in grado di dire sostanzialmente cosa è avvenuto, non semplicemente la interpreto correttamente, no? Perché noi i ricordi sono sempre trasformati, ma è una memoria, che se una memoria ce la ricordiamo in due, possiamo averne due versioni diverse, ma quel fatto lì è avvenuto. Abbiamo occupato scienze politiche. Okay. Nel tuo libro, nel tuo secondo libro, la gente dice: ma non è vero, cioè, anche se una settimana prima aveva occupato scienze politiche, dice: ma era stata una manifestazione, ma non c'è stata nessuna manifestazione, ma tu stai scherzando. Ma quindi si cancella memoria a distanza di pochissimi giorni. Però in entrambi i due primi romanzi c'è una situazione di stallo. Diciamo che la società non sta né avanzando né arretrando. Si lascia a chissà quali altri capitoli l'evoluzione della società. In questo almeno c'è una presa di coscienza. Senza dare una spiegazione del finale, c'è un briciolo di speranza all'interno, no? E quindi questa è la domanda, se sei diventato più ottimista. L'altra domanda, che è una domanda critica, è: sembra capire che è la presa di coscienza che fa cambiare, che potrà indurre un cambiamento, no? Una presa di coscienza, come dire, a prescindere dai fenomeni socio-economici, mentre invece in teoria noi apparteniamo a una visione del mondo nella quale quello che pensiamo noi è determinato dalla condizione in cui siamo, e quindi anche oggi noi pensiamo a forme di superamento della nostra società che tra 10 anni non ci potranno più essere, perché la società si sarà evoluta e quindi genererà nuove forme di pensiero. Mentre qui è quasi, permettimi, quasi idealista, no? A un certo punto prendiamo atto che forse c'è qualcosa che deve essere cambiato, ma non è che la società che si sta modificando, siamo noi che cominciamo a pensare in maniera diversa. Quindi A, sei diventato ottimista rispetto agli ultimi anni, e B, sei diventato idealista. Esatto. Ma non so se sono diventato ottimista, certo non sono diventato idealista, infatti non è un romanzo che si conclude col socialismo, ecco. Noi vediamo poi periodicamente, per fortuna, delle ondate per quanto magari effimere, di almeno apparente presa di coscienza. L'abbiamo visto qualche settimana fa, le piazze piene. Io una manifestazione come quella, cos'è stato il 4 ottobre a Milano, francamente non l'avevo mai vista dal punto di vista quantitativo. E quella, diciamo, è stato forse il precipitato di una presa di coscienza che è maturata in 2 anni in cui per noi militanti politici, attivisti politici, era invece una situazione assolutamente deprimente, cioè la situazione in cui davanti a un massacro come forse neanche mai ci eravamo immaginati, in disprezzo di delle più elementari anche regole, forme di occultamento, cioè un anche tempo forme di occultamento, ammazzava, cioè proprio tenendolo nascosto, quantomeno gli atti più infami prodotti impunemente senza nessun tipo di sanzione neanche verbale e non occultati. Questa cosa noi l'abbiamo vista per 2 anni e sembrava che tutto fosse un tabù, che tu non ne potessi parlare. Io ero sul mio posto di lavoro il rompicoglioni che ogni tanto tirava fuori provava a fare qualche ragionamento in ufficio, così, ma cadeva regolarmente nel vuoto, cioè nel vuoto, nella constatazione, sì è così, basta, non c'è altro. Il precipitato di 2 anni, probabilmente di gente che però nel frattempo guardava e qualche ragionamento lo faceva, è stato quell'ondata effimera, perché qui non sono idealista, nel senso che poi se non c'è un'organizzazione non c'è la rivoluzione spontanea e qualsiasi movimento è destinato a rifluire o spontaneamente o con l'aiutino, come abbiamo visto nel 2001 a Genova, cioè ti iniziano a riempire di legnate fino a quando non te ne torni a casa. Però, ecco, in quel contesto, che ripeto è un contesto in cui sembrava che l'idea del conflitto fosse stata rimossa, il mio ottimismo è: l'idea del conflitto non viene rimossa neanche in un contesto del genere. Questo non produce di per sé un cambiamento, però è un processo dialettico, quello della presa di coscienza, che parte da contraddizioni che sono nella società e si alimenta poi anche dal fatto che c'è qualcuno che agisce, perché sennò non si fanno passi avanti. Cioè questo è il mio modo di vedere le cose. Non so quanto sia ottimista, però io vedo anche che in questo paese, dopo l'eccezionalità degli anni 70, abbiamo una eccezionalità al contrario, cioè le forme di conflitto e di antagonismo che si producono in altri paesi come la Francia, gli Stati Uniti, ci si potrebbe elencare, sono molto più avanti rispetto a quello che c'è qua, dove c'è il parossismo della frammentazione e il continuo piangersi addosso. Ecco, forse l'ottimismo è anche una reazione a questo trentennale piangersi addosso che ci ha veramente rotto il cazzo. Cioè, come diceva Weber, che era come diceva Flaiano, non si farà mai la rivoluzione in Italia perché non si troverà mai nessuno disposto a mettere i mobili per le barricate. Per cui sì, esatto, la frase era i mobili, esatto, i mobili, cioè, propri. Per cui sarà un risotto che vi seppellirà. Direi che se non ci sono altre domande possiamo chiudere qua, perché comunque possiamo sempre a mangiare, passare dal al momento culinario, per chi ne avrà voglia, cioè prima del momento culinario, se qualcuno organizzare una risottata adesso, se qualcuno assolutamente non ero preparato, se qualcuno è interessato, poi là dove c'è Totò c'è un banchetto, vero, ci esatto. Sono i libri, ma Totò è lì per non far uscire nessuno, a meno che non abbia comprato. Io faccio la mia consueta foto, a meno che non abbiate non usciate con un libro in mano, Totò non vi farà uscire, quindi è per quello che è lì. E poi chi vuole, ci possiamo organizzare per andarci a mangiare un risotto. Rigorosamente un risotto.